L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente che ci piacerebbe abitare insieme. Abitare e costruire sono proprio questi i temi che affronteremo in questa puntata e nella prossima puntata dell'altro pianeta, quindi tra una settimana. Oggi partiamo da una ricerca promossa dalla Fondazione Cariplo e realizzata dal Dipartimento Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. Una ricerca che è partita da un'analisi ampia dell'area lombarda e che poi si è concentrata invece su un'area più vicina alla città, quella attorno all'area Expo, dove sorgerà l'Expo nord-ovest del capoluogo, dove oltre il 60% della superficie territoriale è urbanizzato e dove in soli 8 anni, si è evidenziato nella ricerca, più di 1.000 ettari di campi, prati e boschi sono stati persi. A guidare la dozzina di ricercatori che in bicicletta o a piedi per 2 anni hanno percorso più o meno 300 chilometri tra appunto campi, boschi, capannoni, villette, aree industriali dei margini della grande città e dei piccoli comuni che circondano Milano, c'era Paolo Pileri del Dipartimento Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. Ci siamo attrezzati per vederlo con 2 paio di occhiali diversi. Uno, un paio di occhiali utilizzando le immagini satellitari, quindi abbiamo fatto un lavoro su tutta la Lombardia e il Verbano Cusio-Ossola. Il lavoro era stato finanziato da Fondazione Cariplo e quindi alla grande scala, per vedere con grandi numeri cosa è accaduto in questa regione, come gli effetti ambientali dopo un ciclo di urbanizzazione molto intenso. 15 ettari al giorno in Lombardia vengono, di campi agricoli, vengono trasformati in urbanizzato attualmente, quindi una cifra gigantesca. Poi abbiamo messo un altro paio di occhiali e siamo andati a fare un focus su un'area più piccola, 40.000 ettari, di un'area che chissà cosa sarà dopo domani. Mi sto riferendo all'area, a tutti a quei 15 comuni che gravitano attorno al sito di Expo. Non siamo andati a vedere il sito di Expo, non ci è interessato entrare in quello che saranno le trasformazioni del sito, ma la nostra domanda era: cosa c'è attorno? Come è fatto il paesaggio che c'è attorno a questo sito? È fatto di spazi aperti che, come ci dicono, come dicono, vorrei dire, alcuni slogan, alcuni luoghi comuni, sono ormai tutti spazi abbandonati, che non ce ne facciamo più nulla, non servono più a nessuno, oppure invece sono spazi che hanno un significato sociale, ambientale o di paesaggio? La risposta a Pileri è scontata. Non è vero che non servono a nulla, ciascun metro quadro di quegli spazi serve invece per produrre cibo, per drenare acqua, per assorbire carbonio, compensando quindi le quantità di carbonio rilasciato in atmosfera da altre fonti, come le auto, che a Milano non mancano. Insomma, ci dice Elena Iachia, direttore area ambiente della Fondazione Cariplo, volevamo documentare fotograficamente l'area, le prime foto infatti sono del 2008, per seguirne lo sviluppo. Come mai? Perché le minacce rispetto al territorio di questi comuni sono tante le possibili infrastrutture che possono essere oggetto di attenzione, quindi parcheggi remoti piuttosto che nuove infrastrutture di ospitalità come alberghi enormi, piuttosto che tante altre cose che chiaramente possono andare a eliminare alcune aree anche di un certo e discreto pregio naturalistico che ancora abbiamo visto sono presenti nelle aree a ovest di Milano. Da questa ricerca è nata anche una mostra dal titolo Spazi Aperti, con catalogo Electa, che fino a domani tra l'altro è ospitata dalla Triennale di Milano. Dopodiché è in cerca di ospiti, per così dire, quindi è una mostra che è pronta a partire per altre città. È comunicativa e diretta e composta da una 50ina di fotografie e da alcuni strumenti che aiutano il visitatore a rendersi conto che attorno a Milano gli spazi aperti sono ormai pochi, pochissimi, da tutelare come i panda, in qualunque direzione si guardi. No, in tutte le direzioni, questo purtroppo senz'altro. Diciamo, la ricerca dettaglia sia sulla tipologia di trasformazioni, quindi da per esempio da suolo agricolo a suolo utilizzato per residenziale o per infrastrutture, oppure anche trasformazioni delle aree boschive in urbanizzato o in suolo agricolo. È una ricerca molto utile e anche rara, va sottolineato, questa che hanno fatto al Politecnico di Milano. Chiunque può consultarla dal sito internet della Fondazione Cariplo, che risponde all'indirizzo www.fondazionecariplo.it/spazi aperti. Farà riflettere la ricerca agli studiosi e ci auguriamo però anche i cittadini e gli amministratori dell'area interessata, quella nord-ovest di Milano, che volenti o no dovranno vedersela con l'Expo e le infrastrutture che saranno necessarie per i visitatori, ad esempio per l'ospitalità. Noi ci sentiamo di promuovere una modalità di ospitalità diffusa, lo abbiamo visto anche con alcune altre ricerche che abbiamo finanziato come fondazione, proprio dedicata all'Expo diffusa e sostenibile. In questo senso proprio stiamo cercando di promuovere anche in altri contesti una valorizzazione del territorio in maniera diffusa piuttosto che il consumo di nuovo suolo, di suolo ancora non urbanizzato. Tra l'altro quello è un modo di tutelare il suolo, perché ovviamente ciascuno a quel punto lì farà del proprio meglio per presentare il proprio territorio. Esattamente, quindi è un'occasione anche di rivalorizzazione, di rimessa in ordine del territorio, cioè ci sono tante possibilità che non vanno buttate via. Perché prendersela tanto? Ci sono tanti motivi, tra cui il paesaggio Made in Italy, un marchio di sicuro successo fino ad oggi, nei secoli, che però è destinato all'estinzione, a quanto pare. Paolo Pileri, del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. La prima sfida, la prima cosa che volevamo spiegare è che, come dice Settis, quel paesaggio che tu vedi fuori dalla finestra è una tessera che, unita a tutte le altre tessere, forma il paesaggio italiano, va bene? E noi siamo purtroppo oggi abituati molto spesso a vedere i paesaggi per piccoli frammenti, così piccoli che noi non riconosciamo neanche più che questi siano paesaggi. Non è vero. E siamo anche tanto abituati a stare dentro, dentro casa, dentro gli uffici, dentro le palestre, dentro le scuole, dentro i negozi, che non sappiamo più ciò che avviene là fuori. Bruno Bottecchio, in un famoso cartone animato, La vita in scatola, voglio dire, ce l'aveva già raccontato qualche decina d'anni fa, ma è esattamente così. Purtroppo stiamo continuando a perdere percezione dell'importanza degli spazi aperti anche come occasione di benessere. E stando sempre dentro poi non ci rendiamo nemmeno conto che fuori le cose cambiano, che i boschi arretrano davanti all'avanzata dei campi, che i campi stessi scompaiono per far spazio a fabbricati nuovi. E dire che ormai è provato che non vedere mai né alberi né campi aperti non fa certo bene. Al contrario, per contribuire alla cura di alcune malattie fisiche o psichiche, ci sono ospedali, anche in Italia, che hanno allestito giardini terapeutici. Addirittura c'è chi all'assenza di verde imputa l'aggressività tipica delle grandi città. Insomma, per riassumere, gli ultimi spazi verdi dentro e attorno alle nostre città non dovremmo cederli senza riflettere al miglior offerente, perché ne va della qualità, della sicurezza, della sostenibilità della nostra vita e non ultimo della nostra salute. Insomma, dobbiamo imparare a guardare fuori dalla finestra in modo diverso. Se ci mettiamo su un altro paio di occhiali, proviamo a vedere questi spazi aperti come ancora riunibili o come esistente un filo rosso che li unisce tipologicamente, sono tutti campi, sono campi con tracce di natura, ci sono luoghi interessantissimi come i fontanili, come le cascine, come dei prati che vengono avvicendati, che servono ancora per alcune colture agrarie. Bene, allora, questi frammenti in realtà sono un unico paesaggio, questo era uno dei messaggi chiave, far capire che non dobbiamo vedere le cose per frammenti, ma dobbiamo fare lo sforzo di unirli innanzitutto culturalmente in un unico paesaggio. È chiaro che questo, per tirar fuori già una piccola conclusione, è chiaro che questo mette in crisi il modo con cui oggi noi facciamo urbanistica, perché l'urbanistica noi la facciamo per comuni, ogni comune ha il diritto di trasformare i suoi territori e noi forse con questa mostra proviamo a cominciare a dire che questo diritto è, come dire, come si dice nei prodotti alimentari, è scaduto. Anna Letizia Monti è la vicepresidente di AIAP, l'associazione degli architetti paesaggisti, Landscape Architects in inglese. All'estero sono una categoria ben più nota che da noi, ma le loro competenze restano anche qui. Si occupano, gli architetti del paesaggio, di analisi, progettazione e gestione degli spazi verdi, dal giardino al parco al paesaggio. Il paesaggio è tutto, nel senso che è tutto quello che sta intorno, quindi i paesaggi appunto che pensiamo come spazi aperti, ma è anche la città, sono tutti quegli spazi dove l'uomo sta all'aperto e quindi anche la città è paesaggio. A lei chiediamo se davvero ogni comune italiano può fare per sé, come sembrerebbe, a guardare le periferie e i confini dei nostri comuni. No, non è che ciascun comune possa continuare a lavorare in maniera totalmente autonoma, ci sono dei piani, ci sono sia piani intracomunali che una pianificazione a livello regionale. È importante però mettere in evidenza che più che mai per quelli che sono appunto gli spazi aperti, gli spazi a verde, è necessario fare una valutazione non solo quantitativa, ma è necessaria anche fare una valutazione qualitativa degli spazi aperti, degli spazi a verde, e quindi diventa estremamente delicato e importante la valutazione che di queste aree viene fatta sia a livello di pianificazione sia nella fase di gestione del territorio. In tutto questo bisogna avere un occhio di riguardo al consumo di territorio. Assolutamente, questo è un altro punto che anche a noi che ci occupiamo di paesaggio sta particolarmente a cuore. Non si può avere una visione assolutamente così restrittiva e univoca per la totale assenza di consumo di nuovo territorio, ma è assolutamente necessario fare molta attenzione prima di consumare nuovi spazi aperti e cercare sempre più di valorizzare e riqualificare quelli che sono gli spazi già utilizzati, e quindi prima di passare a utilizzare nuove aree, nuovi spazi a verdi, è prima necessario cercare di riusare, di pensare nuovi usi, nuove formule per la gestione del territorio che c'è. Ecco, io credo che soprattutto in questo ambito sia necessario pensare di avere, mi concede il termine, più fantasia, cioè non pensare a nuovi utilizzi, a nuove forme di utilizzo. Domandare al professor Pileri come si dovrebbe costruire per tutelare il territorio è fargli venire i capelli dritti. Bisognerebbe prima riqualificare e ristrutturare l'esistente, dice, ma se proprio bisogna costruire, allora i cittadini dovrebbero ottenere una compensazione per il bene comune che perdono. È chiaro che l'equazione utilizzo una risorsa comune, ne tiro fuori dei soldi per poter in qualche modo tirare avanti la baracca, quindi il bilancio del mio comune, è un'equazione che non regge in nessun caso. Allora, quella che potrebbe reggere un po' meglio, ammesso che abbiamo veramente bisogno di continuare a consumare suolo, quella che potrebbe reggere un po' meglio è invece quella di dire: va bene, io urbanizzo e quindi utilizzo una risorsa così importante, multifunzionale come il suolo. Chi urbanizza, chi costruisce, si deve anche far carico di ripristinare altrove quei valori ambientali, ecologici e anche sociali che quel metro quadro urbanizzato in qualche modo ha cancellato. Non si tratta di pagare denaro, ma di ripristinare il bilancio ambientale del comune che cede una parte del suo territorio per una nuova edificazione. Ma sono meccanismi assai poco noti da noi, purtroppo. Comunque, per continuare a parlare di territorio, consumo del territorio, nuove edificazioni, l'appuntamento è per la prossima settimana. L'altro pianeta prosegue subito dopo la viabilità. L'altro pianeta. Eccoci, bentornati all'altro pianeta. Continuiamo, come avevamo detto, con l'intervista di Cristina Carpinelli a Daniele Scaglione. Oggi l'ospite dell'intervista è Daniele Scaglione. È nato a Torino nel 67, ai vertici di ActionAid, organizzazione non governativa che lotta contro la povertà, è stato presidente di Amnesty International dal 97 al 2001, è laureato in fisica, ha lavorato in Fiat e poi, come abbiamo detto, nel mondo della cooperazione sociale. Lo intervistiamo perché ha appena finito di scrivere La bicicletta che salverà il mondo, edito da Infinito Edizioni. Daniele, come nasce questo libro? Nasce da cercare di mettere insieme un ideale di giustizia e una passione. L'ideale di giustizia è quello di un mondo dove non ci sia più la fame, che colpisce ancora ormai 1 miliardo di persone. Aspettiamo a ore il nuovo dato degli affamati nel mondo, ma è difficile pensare che sia più basso di questa cifra. E la passione è quella per la bicicletta. Io amo la bicicletta sia per quello che riguarda la mia vita nelle città, sia per quello che riguarda lo sport, le vacanze. Ormai è una costante che mia moglie e io facciamo le vacanze in bici, e ho capito che si potevano raccontare queste due cose, storie di biciclette e storie di fame, e ovviamente storie di fame a lieto fine. La prima domanda di pertinenza rispetto alla trasmissione è se secondo te può esserci in un futuro un cambiamento di rotta rispetto anche alla coscienza, diciamo, ecologica delle persone? Beh, sembrerebbe di sì. Guarda, posso dirti che una cosa che già mi fa molto piacere del mio libro, che un'amica che l'ha letto mi ha scritto dicendo: mi hai convinto ad andare tutti i giorni a lavorare in bici. Ma adesso sai che è già un buon risultato, valeva la pena scriverlo. Però io credo che ci sia già questo cambiamento, questa tendenza in atto, perché se noi guardiamo, vediamo che sempre più persone vogliono utilizzare la bicicletta, vogliono potersi muovere anche nelle stesse città, anzi soprattutto nelle città, come grazie alla bicicletta in occasioni quotidiane, in occasioni di lavoro. Quello che c'è un grande ritardo, quello a cui si assiste un grande ritardo, sono le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni nazionali, cittadine, locali. Alcune città che fanno dei buoni lavori sull'uso della bicicletta ci sono, ma generalmente c'è un ritardo mostruoso. Io nel libro faccio notare come una città come Vienna, quindi una metropoli, una città bella, che nessuno può dire che sia indietro o non sia moderna, ha più chilometri di ciclabile di Torino, Milano e Roma messe insieme, ma molti di più, no? E questo perché siamo indietro, perché pensiamo che la bicicletta sia uno sfizio e non effettivamente uno strumento che potrebbe migliorare la vita di ciascuno di noi. Invece adesso ti faccio una serie di domande più o meno secche che hanno a che fare con te, col tuo impegno diretto per l'ambiente. La prima domanda è più romantica ed è così: se ti dico terra, a te cosa viene in mente? Colline, montagne, tendenzialmente. Se fossi obbligato a scegliere, quale animale vorresti salvare dall'estinzione? Ahia, il cavallo, credo. Perché? Non lo so, da sempre, da piccolo, il cavallo mi ha affascinato, un pochino mi spaventa perché è un animale grosso, credo di essere salito su un cavallo 2 o 3 volte, però mi ha sempre affascinato molto questa sua essere una via di mezzo fra, non lo so, un mezzo di trasporto, un mezzo di grande indipendenza, però al tempo stesso. Se potessi scegliere invece, quale animale vorresti essere per un giorno? Beh, credo un'aquila, francamente. Beh, la domanda successiva è perché? Allora, l'aquila mi ha sempre affascinato per come vola, per come vola in alto, per come spazia. Poi ho scoperto col tempo che è anche un animale un po' pigro. Cioè, io credevo fosse un animale che domina con grande fatica, invece ho scoperto che utilizza molto le correnti ascensionali e quando un po' mi ci rivedo, perché io non credo di essere uno che vuole faticare a tutti i costi, anche se vado in bici in montagna. E allora mi piace questa filosofia di questo animale che, diciamo, si permette un gran bel vivere in mezzo all'aria pura, su dei bei posti, però al tempo stesso cerca anche di prendersela comoda quando può. Tu dici di essere pigro, però io so, perché ti ho seguito anche negli anni, che il tuo impegno è molto forte, costante, le uscite dei tuoi libri di solito corrispondono a un impegno civile reale, forte, lavori all'interno di ActionAid. E allora la domanda che ti faccio è: proprio dal tuo osservatorio, tu pensi che il genere umano, l'uomo, potrà essere migliore nei confronti dell'ambiente in futuro? Nel mio bagaglio personale ho anche una laurea in fisica, e la laurea in fisica mi ha insegnato tante cose, fra cui una in particolare, che non è la forza atomica o la forza nucleare quella più potente, la forza più potente è la forza di inerzia. La forza di inerzia è quella cosa che ci porta a fare le cose sempre nello stesso modo, che non ci fa cambiare le abitudini, che ci fa sedere sugli allori. Allora, per rispondere alla tua domanda, io ti dico che il mondo, l'umanità potrà cambiare se avremo voglia di sconfiggere la forza d'inerzia. E sconfiggere la forza d'inerzia vuol dire cambiare le abitudini, magari non in maniera radicale, però banalmente il discorso della mobilità e dei trasporti. Abbiamo bisogno di ciclabili, che siano ciclabili serie, che non siano semplicemente delle strisce tracciate per strada, perché quello non basta, bisogna che ci sia qualcosa di più. E automobilisti, per favore, non parcheggiate sulle ciclabili, cambiate abitudini, provate a non prenderla. Allora, ti ho fatto due esempi piccoli e stupidi, che però secondo me sono il frutto della forza d'inerzia, del non rendersi conto che un piccolo cambiamento è possibile ed è un cambiamento straordinario. Io vivo anche a Roma ormai da 11 anni, e nel momento in cui ho deciso che in Roma avrei girato solo con la bicicletta o con i mezzi pubblici quando devo andare a stazione, la mia vita è migliorata tantissimo. Grazie Cristina Carpinelli per questa intervista, ed è il momento dell'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Siamo lieti, tra l'altro, di darvi una buona notizia che riguarda la Reggia di Carditello in Campania, di cui parlammo due settimane fa, perché destinata a essere messa all'asta. Le ultime notizie da Caserta confortano, perché pare che la Regione Campania si impegni a salvare il sito reale. Chissà se è merito anche di questa trasmissione e dell'SOS lanciato da Italia Nostra tramite Marco Carminati e tramite quindi questa trasmissione. Sentiamo comunque qual è il caso di questa settimana. Buongiorno da Marco Carminati. Continua il nostro viaggio per l'Italia, per le bellezze dell'Italia, ma anche per i problemi che incombono sul nostro patrimonio artistico. Oggi siamo nel Lazio e ci guida alla scoperta di un importantissimo e antichissimo ponte, il Ponte Lucano. Ecco, ci guida il presidente della sezione Aniene di Italia Nostra, che è il dottor Carlo Boldrini. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Ecco, lei che risiede come presidente della sezione Aniene a Tivoli ha questo ponte, diciamo, quasi in vista. Ecco, ci descriva dove siamo, ci faccia capire appunto che cos'è questo ponte, in che contesto si trova e storicamente perché è così importante. Dunque, il ponte è un ponte sull'antica via Tiburtina, sul fiume Aniene. Sì. Si trova a circa 5 km da Tivoli ed è stato in realtà in funzione lungo la nazionale tra Tivoli e Roma fino a prima della Seconda Guerra Mondiale. Ah, accanto al ponte c'è un monumento molto importante, il mausoleo dei Plauzzi, che è uno dei pochi mausolei rotondi dell'aristocrazia dell'inizio dell'impero, che ci è pervenuto in buono stato insieme al mausoleo di Cecilia Metella sull'Appia. È l'unico in pratica che sia pervenuto al giorno d'oggi più o meno intatto. Il posto era una volta l'ingresso a Tivoli, c'era una fortificazione sul vecchio mausoleo, così come sul mausoleo dell'Appia, e c'era lì la dogana e un'antica locanda per ospitare i viandanti costruita nel Cinquecento. Insomma, quindi un bellissimo posto dove il monumento romano è stato riutilizzato nei secoli. Sì. Quindi credo proprio un luogo anche amatissimo, immagino, dai viaggiatori del Grand Tour. Sì, è uno dei più ritratti in stampe dipinti del periodo tra il 500 e l'800, forse l'inizio del 900. Quindi è stato immortalato in quadri, in incisioni, sculture, quindi un Sono monumento. Sì, moltissimi quadri, in molti musei, diciamo, si vedono riproduzioni del Ponte Lucano, o anche si vedono certe volte riproduzioni fantastiche del Ponte Lucano in quadri di altro soggetto. Ecco, quindi è stato veramente un luogo e un monumento importantissimo. Lei accennava al fatto che però è caduto in disuso in quanto ponte già da parecchi decenni. Ecco, voi di Italia Nostra, quando ci segnalate queste cose, è perché anche volete mettere in evidenza dei problemi che incombono su questi importanti angoli d'Italia. Ecco, nel caso del Ponte Lucano, qual è il problema che lei vuole mettere in evidenza? Dunque, in realtà il ponte sul fiume Agnene come ponte di strada secondaria è rimasto in funzione fino alla fine degli anni 90. Ecco. Il mausoleo era, diciamo, visitabile per quanto in stato non perfetto. I problemi sono venuti con i lavori di difesa idraulica fatti dall'ARDIS, l'ex Genio Civile, Agenzia per la Difesa Idraulica, per l'appunto, sì. Realizzato un progetto distruttivo per il sito, perché ha chiuso il mausoleo e l'antico ponte romano tra argini di cemento alti da 4 o 5 metri, insomma, a distanza molto breve. Certo. La zona interna è rimasta un deposito di rifiuti più o meno ed è comunque inaccessibile. I lavori in realtà non erano stati del tutto autorizzati dal Ministero dei Beni Culturali. Noi abbiamo fatto un esposto e in conseguenza di questo esposto abbiamo saputo che non c'era l'autorizzazione della soprintendenza ai beni paesaggistici. Ah, quindi un caso complicato. E allora voi che di questi problemi e di queste esperienze avete fatto molto tesoro, che cosa potreste suggerire per riportare questo luogo alla dignità che merita di antico ponte e di antica tomba romana? Dunque, noi nel 2004 organizziamo una raccolta firme anche con l'aiuto del professor Godard, che è consulente per i beni culturali del Presidente della Repubblica. Certo. E in seguito raccogliemmo molte migliaia di firme. In seguito a questa raccolta si mosse il Ministero dei Beni Culturali, l'allora sottosegretario Bono, riunì tutti gli enti che avevano voce in capitolo per un protocollo d'intesa per il restauro, per il recupero del complesso monumentale. Però purtroppo questo avviene nel 2005 e da allora nulla è stato fatto. Non c'è. Noi cerchiamo di insistere, cercare di mettere in moto il meccanismo di recupero, incominciando con uno studio dei flussi dell'asta del fiume che l'ARDIS non ha fatto prima di realizzare i lavori. Senta, dottor Bordrighini, io le auguro naturalmente che questa vostra battaglia si concluda con una vittoria di Italia Nostra, della vostra sezione e anche una vittoria del nostro paese, perché naturalmente salvando un piccolo angolo salviamo un po' tutta la dignità e la nostra storia e il nostro passato, che però è una ricchezza tale anche per noi oggi che non possiamo permetterci di trascurarla. La ringrazio molto di questa sua partecipazione. Grazie a lei, l'appoggio della stampa per noi è essenziale. Benissimo, la ringrazio molto. Speriamo di esservi utili. E un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Laura Bettini, un buon proseguimento su Radio 24 e appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it.